città e perdersi è la mia specialità, ma venderla sai poi non mi va. Se brilla, tu sai che non va, e portami un po' un gradino più in là. La rabbia non fa bene, si sa, e salgo come l'aria che si apre in vortici. Preso dalla terra da cui mi rapisci e poi mi richiami in pioggia e colori. Anima guerriera che spinge limiti. Se dormi tu, dorme anche papà, e sogna che domani si va. Salgo come l'aria che si apre in vortici, e preso dalla terra.